al consueto e atteso appuntamento col santo curato d'Ars, che a quanto pare sta insegnando e ha già insegnato molte cose a preti e laici in questi 2 anni, quasi 2 anni e mezzo, di sua permanenza qui a Radio Maria, come ospite fisso di questa nostra serata sacerdotale. Come ricorderete, stiamo parlando delle sue virtù, o meglio delle virtù che maggiormente lo caratterizzano, diciamo, nella rosa dei santi. È un lavoro certo non breve che noi stiamo facendo prima di congedarci da lui, quando narreremo appunto il suo congedo da questo mondo, cioè la sua morte. Un lavoro che penso ci terrà impegnati parecchio e che sono convinto ci saprà offrire non solo molti spunti per la meditazione, ma soprattutto molti stimoli per la nostra conversione e quindi per la nostra crescita spirituale. Dunque abbiamo parlato finora dell'umiltà del curato d'Ars, un'umiltà che in lui non era solo una virtù ordinaria, come abbiamo detto, ma una virtù ordinaria che alla fin fine corrisponde al buon senso. No, ma era vissuta costantemente nel suo animo in un grado eroico. E giustamente si dice che il primo miracolo nella sua vita sacerdotale fu proprio questo: come riuscì a restare sempre umile e perfettamente conscio del suo limite e della sua miseria, malgrado l'enorme successo che otteneva nella vita apostolica. In fondo quel pellegrinaggio incessante, no, verso quella piccola e umile borgata che era Ars, la gente lo faceva per che scopo, per chi, per cosa? Ecco, non per altro scopo che per vedere lui, vero? Andando lì la gente non andava per esempio a un santuario, non andava a un celebre luogo di culto, ma andava perché richiamata dal fascino spirituale di una persona che là era presente e che là dava udienza a tutti, a chi voleva. Ecco, era questo l'unico scopo del pellegrinaggio ad Ars. Era lui la grande attrattiva dei pellegrini, era lui la grande calamita che li attirava verso quel luogo altrimenti tanto povero e desolato della Francia settentrionale. E questo lui lo sapeva bene, eh? Non era un ignorante, come qualcuno credeva. Fu solo stimato ignorante, e peraltro da pochissime persone. Ma in effetti era tutt'altro che un ignorante, anzi era intelligentissimo e capiva bene di essere al centro di questo grande movimento spirituale. E come abbia fatto a resistere a qualsiasi tentazione di superbia, io penso che questo deve essere senz'altro considerato come il più grande miracolo della sua vita, della vita del nostro santo. E forse dobbiamo attribuire questa grazia anche per buona parte a quella specie di visione che lui ebbe un giorno, del resto su sua esplicita richiesta, visione che lui ebbe circa la propria miseria. Un giorno il Signore, come sapete, gli concesse questo, diciamo, favore, cioè mostrargli tutta la sua miseria umana. E il nostro santo ne ebbe tale sconcerto che sconsigliò chiunque di chiedere la stessa grazia, perché è troppa la paura che si prova nel vedersi proprio così come si è. Però dobbiamo convenire, carissimi, che per lui questa, chiamiamola grazia, fu veramente una grazia, perché lo preservò totalmente, definitivamente, dall'incappare nella superbia. Anzi, ripensando a questa visione, il nostro santo si rafforzò ogni or più nell'umiltà, che ormai lo dominava completamente e informava ogni più piccola fibra del suo essere. Beh, comunque adesso, carissimi, cambiamo argomento e passiamo dall'umiltà alla povertà, che divideremo in 2 capitoli, amore alla povertà e secondo amore ai poveri. Vediamo dunque per prima cosa il suo amore alla povertà. e anche qui ne sentiremo delle belle. Si dice giustamente che un'anima umile ama anche la povertà e i poveri. E di Don Vianney, tanto umile, si può dire quello che San Francesco d'Assisi diceva di se stesso quando affermava di avere sposato Madonna Povertà. Difatti, guardate, la camera del curato era povera, poveri i suoi mobili, povere le sue vesti, povero il suo cibo, anzi poverissimo. E se si fosse voluto dipingere la povertà non si sarebbe potuto far meglio che prendere a soggetto la sua persona e le sue cose. Vi furono confratelli, come sapete, che qualche volta gli fecero osservazione circa il suo modo di vestire, giudicato troppo trascurato fin dai suoi primi anni di sacerdozio. E dobbiamo dire che finché ne ebbe comodità, cioè per circa 10 anni, fin quando non iniziò il famoso pellegrinaggio di Ars, pensò lui stesso a rammendare i suoi abiti. E siccome non riusciva troppo bene nei lavori di cucito, è immaginabile che figura facessero sulle sue vesti certi rattoppi fatti da una mano troppo frettolosa, la sua. E una delle sue massime collaboratrici è Gianna Maria, che fu anche la sua lavandaia, accennando alle sue calze, dice che vi aveva portato così numerose cuciture che dovevano essere uno strazio per i suoi piedi. E Caterina Lassagne, l'altra sua grande collaboratrice, lo sorprese un giorno mentre stava ricucendo i suoi calzoni a un ginocchio. Stupita, si arrestò sulla soglia della camera fino a che il santo non l'accolse col suo solito tono scherzoso. Dunque, Caterina, credevate di incontrare il vostro curato e invece avete trovato un sarto. E dobbiamo dire, carissimi, che fino al tempo del pellegrinaggio non possedete che una sola veste talare, tutta un rammendo. E questa povertà estrema e volontaria gli fu causa di grande imbarazzo un giorno d'inverno, mentre tornava da una parrocchia vicina, situata nella regione delle acque stagnanti, dove si era recato per una missione. Bene, camminando era caduto più volte sulla strada fangosa e si rendeva conto che sarebbe stata un'imprudenza proseguire in quello stato fino a casa, dove del resto non avrebbe trovato un'altra veste per cambiarsi. Pensò allora di rifugiarsi presso un suo buon parrocchiano che abitava fuori del paese, al quale dovette manifestare la sua miseria. L'ospite commosso fu sollecito nell'aiutarlo a svestirsi e gli prestò qualcuno dei suoi abiti intanto che la veste talare asciugava presso un gran fuoco. Ma attenti, quando cominciò il pellegrinaggio, gli fecero presente che non doveva più portare simili abiti miserevoli. E difatti, gli diedero in dono due vesti, una delle quali tenne in serbo per i giorni solenni, per le grandi feste. Tuttavia preferiva la più povera e che usava fino al giorno in cui si riduceva a brandelli, giustificandosi in modo tutto suo e dicendo cioè: una veste sdrucita non sfigura sotto una bella pianeta. Ebbene, in una delle visite pastorali del suo vescovo dimenticò di indossare la veste migliore e se ne rammaricò. Ci ho pensato troppo tardi, confidò a fratello Atanasio, e me ne è dispiaciuto. Dobbiamo inoltre dire che non acconsentì mai a possedere contemporaneamente più di due vesti, e quando gliene offrirono una nuova per cambiarla con quella sdrucita, tra parentesi che sarebbe stata conservata come preziosa reliquia, ottennero purtroppo un solenne rifiuto. E pensate, qualche volta gli furono messi degli abiti in camera sua, senza avvertirlo. E allora egli cosa faceva? Li consegnava ai fratelli della Sacra Famiglia, presenti in parrocchia. E così fratello Atanasio ne ebbe in dono tre. Secondo la testimonianza del suo confessore Don Bo, non Don Bosco, ma Don Bo, B.A.U., negli ultimi 10 anni del suo ministero lo si vide meglio vestito e sempre in tenuta ecclesiastica completa, ossia vestito con semplicità ma anche con proprietà. Ma comunque non portò mai il mantello, e quando durante il giubileo del 1826 da lui predicato a Trevoux, quando in quell'occasione gliene regalarono uno, lui lo donò subito a un povero. E penso che sia importante, carissimi, anche osservare che usava la stessa veste in estate e in inverno. E durante la stagione rigida, a volte, gliela foderarono nottetempo con qualche scusa senza che egli se ne accorgesse. E ora, carissimi, vediamo di descrivere anche la canonica, E diciamo subito che la canonica somigliava al canonico, vero? Cioè al parroco. Nello stretto cortile erano cresciute davanti alla porta 3 piante di sambuco e vegetava l'erba proprio come in un prato. Per questo Don Vianney si compiaceva di chiamarlo il suo Bois de Boulogne, un celebre bosco. Quantunque è assai dubbio che abbia mai goduto la sua ombra e respirato il profumo di quei fiori. Altro inconveniente, le mura di casa. Le mura perdettero poco a poco l'intonaco e si screpolarono, e il conte di Garé, avendo chiesto di provvedere a sue spese alle necessità, alle necessarie riparazioni, trovò difficoltà. Il santo si oppose sempre ai lavori che si volevano fare nell'interno. Diceva infatti, sta abbastanza bene così. Quando verrà un altro curato disporrà della mia camera, come di tutto il resto della casa, secondo i suoi desideri. Per ora lasciate pure stare così com'è. E giusto riguardo alla camera, dobbiamo dire che la camera aveva il pavimento di mattoni qua e là consumato, e fu necessario che il sindaco approfittasse della sua assenza per attuare le riparazioni più urgenti. Le altre stanze della canonica non avevano mobili e rimanevano in assoluto abbandono. I telai delle finestre si erano disgiunti, per cui i vetri caddero. A pian terreno i rovi entravano nella cucina fino al caminetto, dove un germoglio, messe ivi le radici, cresceva indisturbato. E fuori della camera del santo tutto era in pessimo stato. E ora, carissimi, osserviamo un attimo anche gli oggetti di suo uso. E diciamo subito che gli oggetti di suo uso erano ridotti allo stretto necessario. Per esempio, per i pasti gli bastavano una scodella e un cucchiaio. Caterina Lassagna dice che gli erano state regalate 3 o 4 tazze abbastanza belle. Un giorno in cui le cercava invano nella camera e sospettava che fossero entrati i ladri o pie persone per raccogliere reliquie, osservò in un angolo della stanza dei pezzi di maiolica, prova pregevole. Gianna Maria, che era presente, disse al servo di Dio: signor curato, ecco dunque che fine hanno fatto le vostre stoviglie. Ecco, erano state cambiate con qualcosa di molto prezioso. Egli sorrise, ma poi rispose un po' serio: ma dunque non potrò mai avere la povertà in casa mia? Dobbiamo inoltre dire, carissimi, che alle direttrici della provvidenza, della Providence, la famosa casa orfanotrofio, egli non diede mai un soldo per il suo personale fabbisogno e per il loro vitto provvidero sempre mani caritatevoli. Mai si preoccupò del domani e quando gli vennero consegnate somme ingenti, le destinò sollecitamente a opere di bene, perché sembrava che quel denaro, quella ricchezza, gli bruciasse tra le mani. Per cui scherzava spesso e compiangeva quelli che risparmiano per il gusto di possedere, paragonandoli a persone che vogliono riempire un sacco di nebbia o che ammucchiano zucche trovandole poi guaste. Attenti cosa è successo. Un giorno Caterina Lassagne lo avvertiva: signor curato, avete del denaro sul tavolo, fate attenzione a non gettarlo nel fuoco. Risposta: arrivate tardi. Difatti la sera prima si era servito di una lettera nella quale c'erano dentro 5 biglietti da 100 franchi, quindi una fortuna, per accendere una candela. E quando incontrò il parroco di Farens, gli confidò questa disavventura dicendo: ieri ho avuto in casa ceneri molto preziose, ma infine è mi normale che se avessi commesso un peccato veniale. Beh, carissimi, a questo punto io non passo subito all'altro capitolo intitolato Amore ai poveri, perché il tempo che rimane non è molto ed è un argomento che merita di essere trattato in separata sede, perché mi sembra che sia davvero molto importante, specie per noi sacerdoti. Per cui, per il tempo che ci rimane, desidero proporvi qualche passo della Bibbia appunto sull'amore che dobbiamo avere per Madonna povertà. Per esempio, quando dice in Proverbi 37:9: io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia, tieni lontano da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il cibo necessario, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica chi è il Signore. Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e profani il nome del mio Dio. Ecco, Proverbi 37:9. Ecco, dunque, dobbiamo saperci accontentare. Certo, la miseria non è da ricercarsi, vero? Non è una cosa positiva, perché la miseria porta all'esasperazione, quindi tende a volte ad allontanarci dalla fede. Ma comunque nemmeno dobbiamo ricercare l'abbondanza, il superfluo, che è, dobbiamo dire, altrettanto nocivo all'anima, se non più nocivo, della miseria. Perché l'uomo, come dice il Salmo 48, nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza, ma nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo. Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare per vivere senza fine e non vedere la tomba. Ecco, bellissimo Salmo, Salmo 48. Ecco, poi un altro passo che vorrei proporvi è il seguente. Non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portarne via. Quando dunque abbiamo di che mangiare, di che coprirci, contentiamoci di questo. Ecco, Prima Corinzi 6:7 seguente. E prosegue ai versi 9-10 dicendo: al contrario, coloro che vogliono arricchire cadono nella tentazione, nel laccio e in molte bramosie insensate e funeste, che fanno affogare gli uomini in rovina e perdizione. E conclude: l'attaccamento al denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Ecco, quindi la Bibbia predica la povertà. Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Ma dice poi: guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Ecco, Luca 6, 20-26. E come sapete Gesù non solo ha predicato la povertà, ma ha soprattutto praticato la povertà. Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Luca 9,58. Ecco, Gesù ha fatto una scelta di povertà. E questo, guardate, fin dall'inizio, Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Luca 2,7. E quando l'angelo appare ai pastori, dice loro: questo per voi il segno, troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Luca 2,12. Ecco, carissimi, ecco il grande segno che Dio ci dà. Non un segno grandioso, altisonante, ma un segno di povertà. Dio è presente in modo particolare sotto le vesti del povero. Dio ha voluto confondere la superbia del mondo incarnandosi in un povero bambino, che proprio a causa della sua povertà fu deposto in una povera mangiatoia. E questo stile, notate, Gesù vuole che anche la sua Chiesa continui a tenere. E più la Chiesa è povera ed è Chiesa dei poveri, e più diventa segno trasparente di Cristo. Invece purtroppo, quando lungo la storia la Chiesa ha ceduto a volte alla tentazione di essere ricca e potente, ecco che allora la Chiesa non ha più potuto essere segno trasparente di Cristo. E purtroppo di questa situazione, come sapete, ne portiamo ancora le tristi conseguenze. Preghiamo dunque il Signore che non solo ci faccia sopportare la povertà, ma che ci faccia anche amare la povertà. Perché Dio non ha scelto i ricchi, ma ha scelto i poveri. E ha scelto Lui stesso di nascere e di vivere povero. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Seconda Corinzi 8,9. Ecco, questo sia anche il nostro programma, un programma di ricca sobrietà, dove i beni del mondo, anziché impedire, favoriscono il nostro incontro con Dio.